Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 16 febbraio, buongiorno, bentornati a tutti i nostri teleradioascoltatori. Siete su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko e Lepida TV canale 118, un programma nato per essere ponte tra carcere e città. E qui con voi ci sono Antonella Cortese qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E appunto io che sono Caterina, ormai ci conoscete già da tempo. Ripartiamo subito dalle notizie del giorno. Ho questa notizia sul Sole 24 Ore: detenzione domiciliare speciale, richiesta provvisoria al magistrato di sorveglianza. Eh sì, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 30 che è stata depositata in queste ultime settimane di febbraio, dichiarando parzialmente incostituzionale l'articolo 47 quinquies della legge sull'ordinamento penitenziario. Ma in che cosa consiste la detenzione domiciliare speciale? È una misura che consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in un altro luogo privata dimora, un luogo pubblico di cura. E solo in caso di donna incinta o madri di prole di età inferiore ai 10 anni con lei convivente di case e famiglie protette. Ma quando viene applicata? Viene applicata in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza di fronte al rischio di un rilevante danno per il figlio piccolo di un detenuto, per esempio, che potrebbe essere collocato in un istituto. E così la Corte Costituzionale per questi casi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni comma dell'articolo 47 quinquies. Questo dimostra però un'attenzione particolare. Sì, dimostra un'attenzione particolare, naturalmente con molta attenzione nella parte in cui l'articolo non prevede che l'istanza di detenzione domiciliare possa essere proposta direttamente al magistrato di sorveglianza, che a quel punto può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Ma come accennavi tu, Antonella, c'è appunto un caso particolare che ha fatto muovere la Corte di Cassazione. Raccontaci un poco questo caso, perché siamo curiosi. Ciò che ha fatto muovere tutto è stata una questione posta dal magistrato di sorveglianza di Siena che riferiva di dover provvedere sulla istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai 4 anni di reclusione. Si tratta di un padre di una figlia minore di 10 anni, all'accudimento della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute. Dunque, la consulta, ammettendo queste modifiche, ammette che la detenzione domiciliare speciale sia disponibile anche per l'espiazione di una pena superiore ai 4 anni di reclusione, ovviamente purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della persona detenuta e vi sia la possibilità di ripristinare una convivenza con i figli. Ciò al dichiarato fine di provvedere alla cura e all'assistenza della prole. Senti, qual è la finalità ultima, diciamo, di questa decisione della Corte? Guarda, la decisione della Corte spiega che le due misure di detenzione, che sono quella ordinaria e quella speciale di cui vi sto raccontando fino ad adesso, perseguono la stessa finalità, cioè quella di evitare fin dove è possibile che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali determinata dalla permanenza in carcere del genitore. Un danno riflesso questo nei confronti del bambino che è anche noto come carcerizzazione dell'infante. Quindi, in conclusione, ne discende che il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale quando sono offerte le concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per essere ammessa, chiaramente, di cui vi ho parlato fino ad adesso. È un cambiamento importante questo nella ragione ultima che sono i bambini, chiaramente, gli innocenti. E quindi questo è un dato rilevante. Mi piaceva raccontarvi questa notizia. Ma rimaniamo con una cantone, sempre il nostro Vinicio Capossela con noi tutta la settimana, resta con me. Ci rivediamo tra pochissimo. Mi piange negli occhi l'artista, seduto nell'ombra ad ascoltare. Nessuno mai passa di qua su questa strada che non porta a me, ma farò pure di baci e di parole. Mi passa la vita ad aspettare e cade sui tacchi di chi sa danzare. Ah, certo sì, tu lo sai far. Sul passo incerto del mio turbamento, quando ti sento spogliarmi dal dolore, resta con me questa sera e balla ancora, danza con me questa sera, spogliami ancora il notte e ci soffia l'orecchio che l'ora già muore, assieme al nostro odore, a questo tuo sapore. Negli occhi l'arte di amare, accende misteri senza parlare, sorridi se io muoio in me, e siedi sull'orlo dei miei pensieri. Sa portare a te, resta con me questa sera e balla ancora, danza con me questa sera, spogliami ancora notte e ci soffia. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Antonella, ti faccio una domanda, ma com'è fare il giornalista in Messico? Non ti faccio questa domanda a caso perché se ne sta sentendo parlare in tutti i modi, purtroppo anche di cronaca in questi ultime settimane. Caterina, è difficile fare il giornalista in Messico perché migliaia di persone, ultimamente cittadini, molti giornalisti e professionisti dell'informazione sono scesi in piazza, in effetti sì, il mese scorso in realtà, in più di 40 città del Messico, per protestare contro la violenza che colpisce tutto il paese e in particolare i giornalisti. L'hashtag della mobilitazione nazionale è stato hashtag periodismo in riesgo, cioè giornalismo a rischio. E da alcuni anni infatti il Messico è uno dei paesi più pericolosi del mondo, per i giornalisti, e l'impunità purtroppo è altissima, aggressioni, minacce, omicidi rimangono senza colpevoli. E le intimidazioni e la paura costringono molte testate e molti cronisti ad autocensurarsi per paura di ritorsioni e di ripercussioni. Ricordiamo con questo che comunque il diritto all'informazione è proprio un diritto sacrosanto, non solo dei cittadini ma anche per gli stati stessi, il diritto all'informazione, a dare informazioni, quindi è molto grave quello che sta succedendo e l'anno è cominciato male, mi sembra. L'anno è cominciato male perché il 2022 è cominciato con un grave bilancio per la stampa. 3 giornalisti sono stati uccisi in meno di un mese, 2 dei quali a Tijuana, che è la città frontiera con gli Stati Uniti. Il direttore del sito Inforeggio, José Luis Gamboa, è stato ucciso il 10 gennaio a Veracruz, mentre il 17 gennaio, quindi pochissimi giorni dopo, la settimana dopo, il fotoreporter Margarito Martinez, che è stato assassinato vicino alla sua casa di Tijuana, nel nord-ovest del paese. E Martinez aveva 49 anni e si occupava prevalentemente di criminalità organizzata. Ovviamente aveva subito delle minacce il mese precedente. E poi il 24 gennaio la Procura Generale dello Stato della Baja California ha annunciato che la giornalista Lourdes Maldonado López era stata assassinata il giorno prima a Tijuana. Oltre che per la sua carriera, questa giornalista, la Maldonado, era conosciuta per tre motivi, perché era una veramente tosta, Caterina. La sua lingua era tagliente, il modo diretto e scomodo di denunciare le ingiustizie dava fastidio e poi aveva una macchina rossa riconoscibilissima. Era consapevole lei del rischio che correva con il suo lavoro e nel 2019 pensa che durante un incontro con il presidente Andrés Manuel López Obrador aveva detto «temo per la mia vita». Secondo l'organizzazione indipendente Committee to Protect Journalists, dal 1992 a oggi in Messico sono stati uccisi 60 giornalisti per motivi legati al loro lavoro e 15 sono scomparsi. Sono dati allarmanti che però ci richiamano una situazione grave anche a livello globale per questo mestiere, vero? Sì, poi ci si è messa la pandemia, Caterina, che pure ha diciamo rovinato tanti equilibri. Infatti non ha fermato il bavaglio dei governi dispotici autoritari ai danni appunto della libertà di stampa, anzi li ha accentuati, perché questo emerge in realtà dal rapporto del 2021 sulle libertà di stampa stilato da Reporters Sans Frontières, e infatti a oggi 488 giornalisti e lavoratori nel settore dei media si trovano dietro le sbarre a causa della propria professione. E secondo il rapporto questo è dovuto principalmente ai tre regimi autoritari che hanno portato avanti campagne intimidatorie e repressive nei confronti della stampa e quindi della conoscenza in realtà. Ne avevamo già parlato in qualche puntata precedente, la Bielorussia per esempio dopo la contestata rielezione del presidente Lukashenko nel 2020, la Cina soprattutto dopo la repressione del movimento di contestazione di Hong Kong, e la Birmania, paese in cui prima del colpo di Stato del 1 febbraio c'erano solo due giornalisti in prigione, mentre adesso ce ne sono 53. Il rapporto tra l'altro menziona anche il numero record di donne giornaliste detenute. Ovviamente la maggior parte sono uomini, l'87,7% dei giornalisti detenuti è uomo. Tuttavia il rapporto ha denunciato di non aver mai contato così tante donne giornaliste in prigione, ce ne sono 60, cioè un terzo in più rispetto al 2020. E tra queste addirittura anche la vincitrice del premio appunto Reporter Sans Frontières 2021, Zhang Zhan, che è la giornalista che con il suo prezioso lavoro investigativo ha messo a nudo le bugie e le storture del governo cinese in merito alla gestione del virus Covid-19. A Wuhan, e ce lo ricordiamo tutti. E comunque restiamo in Messico, Caterina, passiamo alla musica e ascoltiamo questo gruppo messicano che si chiama Maná con la canzone Clavado en un bar. E poi però non andate via, perché c'è la seconda intervista di Caterina Giuseppe Matulli, presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel presso il carcere di Solicciano. A dopo. Oh, Bentornati a tutte e tutti dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV e continuiamo già da ieri con l'ospite del giorno, l'intervista a Giuseppe Matulli che è presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel ed è anche presidente dell'Istituto Storico sulla Resistenza di Firenze. E l'Associazione Pantagruel opera presso il carcere di Sollicciano, ma del carcere di Sollicciano noi abbiamo sentito molto soprattutto in questi ultimi mesi dalle pagine dei giornali, purtroppo per la grave situazione strutturale che fa di questo carcere uno tra i non degni del nostro paese. Queste sono le parole della ministra Marta Cartabia in visita presso il carcere già a metà gennaio scorso. Ma chiedo proprio a te, Beppe, di raccontarci il tuo punto di vista come volontario, anche presidente dell'associazione, come mai il carcere di Sollicciano è caduto in questa situazione di mancanza di attenzione verso gli spazi. Sollicciano è indecorosa per diversi motivi. Voglio subito premettere che da quando sono entrato io, quindi nel 2014, ad oggi, gli operatori del carcere, sia gli operatori trattamentali, sia la direzione, sia il personale della polizia penitenziaria hanno un atteggiamento molto positivo sia nei confronti dei carcerati, nel tentativo di fare quello che possono fare, spesso con la consapevolezza dei limiti che sono propri della struttura carceraria, sia ora soprattutto nei confronti dei volontari, dei quali dicono senza voi, poi lo vedremo se dopo parleremo anche dei progetti che facciamo, di come sia difficile pensare ad un carcere con l'assenza dei volontari. Quindi, fatta questa premessa, cioè non è responsabilità degli operatori del carcere di Sollicciano, e il carcere è stato, il primo grande elemento è evidentemente che è stato costruito con ditte che hanno cercato di risparmiare. Stavo per dirlo. Perché non è il vecchio convento del 1700 trasformato in carcere. Questo mi pare che sia dell'82, una cosa di questo genere. Ora non ho presente esattamente. E quindi è un carcere relativamente nuovo. E però basta vedere quando piove, insomma, lungo i muri scende l'acqua, spesso e volentieri anche dal tetto scende la goccia, quindi c'è magari un secchio in mezzo a un corridoio per raccogliere le gocce che cadono, quelle che viceversa scendono lungo il muro, eccetera. Spesso e volentieri in terra c'è, quando piove, l'acqua, un paio di dita d'acqua, eccetera. Quindi è una situazione da questo punto di vista di degrado fisico molto rilevante. Il secondo aspetto, che è un aspetto di degrado totale, è che questo carcere è stato fatto da degli architetti che hanno inteso fare un carcere, come dire, modello, non so come chiamarlo. Mentre i carceri tradizionali sono quelli fatti a raggi, no? In modo che la polizia penitenziaria ha la possibilità di vedere, che so io, 4, 5, 6 sezioni che partono da una stessa, e quindi lì invece le sezioni non sono rettilinee ma sono curve, in modo che non possano essere guardate né da una parte né dall'altra, e quindi diventa, come dire, comprensibile, non voglio dire giustificato, comprensibile che il carcere sia chiuso perché non puoi controllare i movimenti, o li dovresti controllare da due parti, quindi dovresti avere molto più personale di quello che c'è, eccetera. La situazione si determinò in modo tale che mi pare proprio agli inizi degli anni, forse addirittura nel 14 quando cominciai io, che era intervenuta una sentenza del Tribunale Europeo per i diritti dell'uomo, la cellula, che, sì. La cellula. Che, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ho capito. È la sentenza Torrigiani, si chiamava, che praticamente minacciava di condannare l'Italia per tortura per effetto per il carcere di Sollicciano, che teneva 23 ore su 24 i detenuti chiusi nelle aziende. Quello determinò all'inizio l'apertura, quindi poi bastò un tentativo di evasione, una cosa di questo genere, che tutto è ritornato. Per cui non si può dire che tutti i carcerati stanno 23 ore su 24 dentro il carcere, perché poi ci sono quelli che riescono ad andare al campo, quelli che quando è bel tempo, poi ci sono quelli che... c'è un poca roba, perché la vera grande risorsa è il teatro. Quando fanno teatro sono molti... il teatro è una cosa molto importante in carcere. I carcerati che fanno teatro si sentono molto, molto realizzati. Poi c'è la scuola, quindi c'è sempre un po' di movimento dentro il carcere per questi motivi. Ma la situazione è pesantissima, perché le celle sono piccole. Il carcere, che mi pare sia di 400 per 450 detenuti, ora mi pare che in questo momento sia in 580, ma sono arrivati anche a 650. E quindi è sovraffollato. Il personale è sottodimensionato. Ecco, appunto, andiamo ai numeri, Beppe. Quanti sono attualmente le persone detenute, sia al maschile che al femminile? E anche se in rapporto al personale che opera all'interno del carcere, questi numeri permettono di operare positivamente sul percorso di pena delle persone ristrette? La popolazione detenuta è 581, di cui 513 uomini e 68 donne. 194 italiani, 387 stranieri. Gli stranieri, quindi il rapporto sono un terzo italiani e due terzi stranieri. Le prime cinque nazionalità prevalenti sono il Marocco, la Tunisia, la Romania, l'Albania e la Nigeria. O poi definitivi 350, presso poco anche qui, 130 italiani, 220 stranieri, in attesa del primo giudizio 93, appellanti 52, ricorrenti 49, posizione mista 7. Ecco. Capito. Adesso capienza regolamentare, abbiamo detto sono 581, capienza regolamentare 491. Okay. Che poi sono meno, di cui 59 posti non disponibili, quindi sarebbero 450. E io, Beppe, ti ringrazio, come ringrazio tutti i nostri teleradioascoltatori che ci hanno ascoltati e seguiti fino a questo momento. Non cambiate canale, c'è una canzone, abbiamo Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa e ci rivediamo fra pochissimo per i saluti di fine puntata. Grazie. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare? Quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. Tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone gira e rigira, la dedico a te. senso di ogni cosa che c'è. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te. E rieccovi, bentornati. Vi annunciamo sempre su Liberi Dentro di Radio nella mezz'ora successiva la rubrica a seguire. Oggi che è mercoledì, ormai lo sapete, abbiamo l'equipe sanitaria del carcere, l'ASL di Bologna, con questa puntata in replica che riguarda lo screening mammografico fatta con il dottor Saguatti, un'intervista di Agnese Drusiani. Vi ringraziamo, scriveteci redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Botta e Paolo Aleotti. Ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.